Amici Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Cercato la Padula sulla profondità, la Padula con Szczęsny con i tempi giusti, no, non con i tempi giusti perché calcio di rigore. E Szczęsny! E ancora una volta sbaglia rigore il Milan, ancora una volta non è. La mette giù Nainggolan, grande controllo orientato, Nainggolan quasi in zona tiro, Nainggolan col sinistro! Raja! Nainggolan! Sempre in ninja! 1-0! L'anno scorso qualche partita l'ha vinta uguale, però poi stasera è stato difficile, soprattutto perché abbiamo trovato un Milan forte proprio a livello di squadra, quello che dicevamo, quello che si dice poi del suo allenatore è verità. Sono 2 anni che manca dall'Europa, il nostro, forse 3, quindi il nostro obiettivo è questo qua, è primario. E io ho fatto una considerazione, una riflessione rispetto all'importanza della prossima partita, che è l'ultima per quanto ci riguarda dell'anno solare, e dobbiamo essere concentrati per portare a casa 3 punti per consolidare insomma una classifica importante. Bellissimo questo pezzo, no? Mi sono concentrato soprattutto sull'introduzione sonora, bravi ragazzi, perché della partita ho visto tutto e ho sentito tutto, quindi è andata come peraltro mi aspettavo. Certo che se continui a far tirare i rigori a Niang, percentuale tra Italia e Francia 3 su 7, 3 segnati su 7 tentati, vabbè, allora ti passa il treno davanti al naso e non sei capace di saltarci sopra. Pierluigi Pardo, buongiorno. Come va? Come va? Cosa ti hanno detto i tuoi ospiti a Tiki Taka su questo rigore di Niang che poteva dare, ma non dico una svolta al campionato perché sarebbe troppo enfatico, poteva dare una scossa a questa partita, un brivido a questa partita? Sì, mentre intanto ci dicono che questo treno è dotato di antincendio. È dotato di, scusa? Impianto antincendio? E meno male che il treno è stato di impianto antincendio, ci mancherebbe non fosse così. Sì, esatto. Su Niang, insomma, il secondo rigore sbagliato, lui mi pare che abbia fatto chiaramente ormai già un passo indietro, che abbia detto che non li tirerà almeno per un po'. È stata una partita non bella. E ha anche detto il prossimo lo lascio alla Padula, con tanti saluti agli altri attaccanti del Milan. Assolutamente. È stata una partita non bella, è stata una partita intensa. Come sempre il risultato contiene in sé un pezzo di verità. E la Roma se l'è portata a casa, esattamente come tante volte il Milan aveva vinto delle partite senza brillare, di poco, di misura, e ieri l'ha persa. E la Roma è la seconda partita consecutiva dopo quella con la Lazio, nella quale soffre in certi momenti, ma riesce a portare a casa 3 punti. E adesso sabato c'è l'esame, casa di una squadra che di solito in casa vince sempre, quindi questa è. Fino a sabato il campionato è aperto, diciamo. Sì, così. Sì, sì. Poi sabato serve l'impresa impossibile per dare una scossa al campionato, come impresa impossibile sarebbe stata, o quasi sarebbe stata, la vittoria del Milan ieri all'Olimpico. Qualcuno mi domanda, ma porto sfiga, ma per cosa, caro amico che mi scrivi su WhatsApp 349-238-6666, mentre saluto Giorgio De Luca in redazione, nostro autore, Alvise Falzone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Ieri delegazione di Radio 24 a Tiki Taka, come è stato riportato da tutti i giornali del mondo. Pardo mi pare caduto dal treno con l'impianto antincendio in funzione. Vabbè, parleremo ovviamente di Milan, tra poco ci torniamo anche con gli ascoltatori 800240024. Più tardi parleremo, tanto per così darvi degli spunti di discussione, torneremo a parlare di sorteggio anche dal punto di vista spagnolo, soprattutto a Madrid, sponda Real, ma anche in casa del Villarreal, che ieri ha dato 3 schiaffoni pam pam pam all'Atletico, che ha 12 punti dal Real Madrid. Vi faccio sentire le reazioni italiane di Nedved e De Laurentiis. Sono sempre partite di Champions League. Appena sottovaluti una cosa sei fuori, perciò Champions League è un abbastanza particolare, poi ci sono riusciti a buttare fuori da Champions League già una italiana, ai preliminari, perciò saranno due partite difficili, con tutto il rispetto che dobbiamo fare, non dobbiamo sottovalutare, come ho detto, neanche minima cosa. Il Real Madrid è una squadra estremamente compatta, estremamente forte, prima in classifica, ha dei giocatori fuori classe, però anche noi non scherziamo, e poi recupereremo finalmente la nostra prima punta Milik, nel frattempo ne avremo comprata anche un'altra che speriamo si sia inserita degnamente nel contesto di gioco di Maurizio Sarri, ed ecco perché noi poi per affrontare Real Madrid dovremo stare attenti a chi effettivamente mettere in campo. Ne compreremo anche un'altra, o magari due, dice De Laurentiis. Più tardi scopriremo chi. Intanto Pierluigi Pardo è sempre sul treno con impianto antincendio che funziona tutto normale. Perfettamente. E allora facciamo così, fermiamoci un istante. Anzi no, prima di fermarci un istante, perché mi intriga questa dichiarazione di Lewandowski, che ha preso 3 voti al pallone d'oro, al solito vinto da Cristiano Ronaldo, che ormai deve fare il giocoliere con 4 palloni d'oro, no? 4 palle, pam pam pam pam. Lewandowski che ha detto, vabbè, il pallone d'oro è un cabaret. Sentiamo Ronaldo. My first golden ball. The emotion is like the first one. It's the dreaming come true again. I never thought in my mind to win 4 times the Golden Ball, so I'm so pleased, I'm so happy. I have opportunity to thank all my teammates, the national team, Real Madrid, all the people, all the players. Tutti convocati. Tutti convocati. Non è d'oro, è qualcosa che mi annoia profondamente, come direbbe Mughini. Otto, direbbe così, Pardo? Profondamente. Dai, che noia. 800-24-00-24 è il numero verde per parlare di questi argomenti e di tutti gli altri che volete, compreso il suggerimento sulla punta che De Laurentiis aspetta per il Napoli. Pier, per ritornare sulla partita di ieri sera, ho convocato, o meglio stiamo convocando, due grandi giornalisti, i nostri amici. Il primo è Giuseppe Di Piazza, che saluto e vedo già in linea. Buongiorno, ciao. Buongiorno, ciao. E l'altro sta arrivando ed è Andrea Vianello, vediamo se riusciamo a farli litigare. Intanto, no, sto a scherzare. Intanto Giuseppe Di Piazza, quello che penso io è che insomma, la Roma al miglior attacco del campionato, se ha Dzeko, che pure ieri sera ha giocato benissimo, e qui faccio un'accusa a voi romanisti che lo avete giubilato l'anno scorso e non lo volevate più vedere neanche in fotografia, mentre io ho sempre sostenuto che non sarà un fuoriclasse ma è un eccellente giocatore. Se oltre a Dzeko ci sono anche tutti questi centrocampisti che fanno gol, vabbè, la Roma potrebbe anche andare a spaventare la Juventus. Ma guarda, ti dico subito che l'anno scorso io con una battuta ho proposto a tutti gli amici miei di metterlo su eBay dopo una serie di prestazioni, perché era veramente inspiegabile come uno che all'estero aveva dato quella prova di sé arrivava in Italia e faceva quelle schifezze, oggettivamente delle prestazioni, per chiamarle grigie è un eufemismo, sì. Quindi eravamo tutti veramente delusi, forse aveva bisogno di ambientarsi, di avere il suo tempo. È un ragazzo molto per bene, molto buono, molto forte fisicamente, sì. Con un gran senso del servizio per la squadra, cosa che sta dimostrando. Abbiamo dovuto trovare come squadra una soluzione, mettergli accanto Salah, che poi è quella freccia che a lui serve per esaltare una serie di sue doti, perché lui ha momenti anche da numero 10 quasi, sì. Però poi c'ha anche una forza di finalizzatore molto, molto evidente. Adesso Salah non ci sarà per una buona quantità di partite tra infortuni e Coppa America, però anche ieri che non c'era Salah, cioè Dzeko secondo me ha giocato una gran partita. Io su eBay me lo sarei preso, Pardo. Sì, ma Dzeko fa una marea di cose utili, te lo dice uno che ha venduto l'ha venduto quest'anno a Pantacalcio, però si è rifatto mezza squadra, quindi preso Andanovic, Parolo, vabbè, però rosico perché sta facendo cose incredibili. No, e l'anno scorso ha avuto un infortunio che l'ha condizionato, che non va dimenticato, se non sbaglio a fine settembre contro il Carpi, e questo gli ha tolto fiducia nel momento nel quale stava cominciando a ambientarsi. Poi c'è la lingua, poi c'è il modulo di gioco, poi da Garcia a Spalletti comunque la Roma un po' è cambiata. Scusami, Pardo, posso fare una considerazione che ha carattere generale, quasi storico, vabbè, relativo, sì, ai tempi recenti? La Roma ha dovuto imparare a giocare con un centravanti, perché non l'ha fatto per anni. È vero, e comunque un centravanti moderno, come si dice, sì, in maniera un po' banale, no? Cioè un centravanti di quelli che comunque partecipa molto all'azione. È un po' il contrario di Icardi. Icardi è il miglior finalizzatore, se gli dai mezzo pallone, dell'intera Serie A. Dzeko è uno che lavora per la squadra, che sale, che fa le sponde, che favorisce gli inserimenti dei centrocampisti e che quest'anno sta segnando anche moltissimo. Quindi sono due giocatori molto diversi da questo punto di vista, però è vero che la Roma per anni ha giocato, la prima Roma di Spalletti fu quella che, ma certo, si inventò il falso 9 con Totti falso 9. E poi così ha giocato per anni, perché anche con Garcia il meglio di sé l'ha dato con quel tipo di modulo. Però te la butto lì, Giuseppe Di Piazza, la partita di ieri a centrocampi invertiti, te le immagini? Perché c'è una sproporzione tra il centrocampo, sì, del Milan che fa... Ma infatti la Roma ha un ottimo centrocampo, la verità è che poi ieri non è che si è giocato molto bene, cioè è una della seconda e terza partita che si vince senza giocare molto bene. Quindi forse in questo la Roma sta crescendo, sta pigliando più consapevolezza, è più aggressiva in tutte le zone del campo, ha una forza fisica abbastanza evidente. Penso a Rudiger, Nainggolan, senza dirlo, Strootman, cioè sono tutti calciatori, Manolas, tutti giocatori che mettono il fisico in campo oltre che la classe. E questa cosa per tanto tempo ci è mancata, cioè la bellezza di specchiarsi in un bel gioco spesso ci ha tolto punti, perché poi alla fine il bel gioco manca di cinismo molto spesso, che così bello non è tanto cinismo. Spiegalo ai tifosi della Juventus, va. Sono critici fino ai limiti della sopportazione nei confronti del loro allenatore. Andrea Vianello, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno direttore, ma quando la smettiamo di far tirare rigore a Niang? Sai, io ieri ho visto e non sapevo qual era il suo carnet, diciamo, di rigori anche nel passato, negli altri campionati. Insomma, su 7 ne ha segnati 4, quindi forse qualche problemino c'è. Sì, molto forse meglio Pardo ai tiri liberi quando giocava a basket, posso dire. Sì, non so, vabbè, però è chiaro che il ragazzo aveva sbagliato la volta scorsa, quindi evidentemente Montella gli ha dato fiducia. Certo, sì. C'è costato tanto quel rigore, eh? Sì, è costato tantissimo, perché ha dato l'impressione di quel treno che ti passa davanti, lo dicevo prima, e poi la partita finisce come era quasi scritto. Anche di una sorta di contrappasso, perché il Milan aveva vinto tante partite senza brillare nei 90 minuti, però, ripeto, poi il risultato ha sempre una sua logica, quindi anche in quelle partite in cui non aveva brillato ma che aveva vinto, era riuscita a mostrare la capacità di chi sa soffrire, di chi sa aspettare il momento e poi sa colpire. Ieri è successo un po' il contrario. È molto difficile dominare per 90 minuti. Io non vedo squadre che dominano per 90 minuti. La Juve, che è certamente la migliore squadra d'Italia, però non domina per 90 minuti. In una partita complicata come quella col Torino, ha la forza, la capacità di far sfogare gli avversari e poi di colpirli. Quindi questa è una caratteristica che hanno le grandi squadre. Il Milan ce l'ha avuta tante volte. Ieri sicuramente la Roma poi è cresciuta, ha vinto e ha mostrato questa capacità. Certo, è che ieri... Chi voleva intervenire? E Vianello. Da milanista devo dire che comunque ieri io sono stato abbastanza inorgoglito, perché nel primo tempo ho visto una squadra che avevo visto raramente come Milan, non solo di quest'anno, cioè una squadra molto quadrata, molto tosta, sicuramente anche aggressiva, che di falli ne abbiamo fatti tanti, però una squadra che teneva il campo con una maturità inaspettata. Poi appunto non sempre le ciambelle riescono col buco, di tiri non ne abbiamo fatte tanti, a parte il rigore c'è stata quell'occasione sfiorata dalla Padula, sì. Però insomma il primo tempo contro una Roma così forte da parte di una squadra così giovane, signori, ce ne fossero, insomma. Poi chiaro che c'è stato un episodio negativo nel secondo tempo, il Milan poi si è un po' afflosciato come un soufflé, non abbiamo cambi, che è un tema cruciale di un campionato come il nostro. Ma sono arrivati altri i 100 milioni famosi della caparra, poi parliamo anche di questo. Sono arrivati. Andrea, posso chiedere ad Andrea che cosa vorrebbe da tifoso? tutta la questione del closing. Il centrocampo della Roma. Voglio i soldi, Riccardo. Vorrei che insomma la squadra avesse delle disponibilità economiche. È chiaro che è una faccenda talmente surreale tutta questa del closing di questi cinesi di cui non conosciamo la natura né l'identità, che non può non rappresentare anche un'inquietudine. No, però scusa Andrea, a questo punto arrivati 200 milioni non si conosce, sono d'accordo con te, è una faccenda surreale. No, non sappiamo chi sono, ma 200 milioni sono arrivati nelle casse del Milan e non sono quattro noccioline. Non sono broccolini. Non sono probabile a una donazione anonima. Cioè, se li dai a Berlusconi e Galliani, sai, io penso che nel calcio moderno, insomma, in un torneo così importante come la Serie A, che noi non sappiamo chi sta acquistando una società cruciale come il Milan, sia veramente una questione surreale e anche preoccupante. Poi è chiaro che da tifoso, se vedo le casse della società rimpinguarsi anche per il mercato di gennaio, non posso che essere contento, però indubbiamente è una faccenda che rappresenta troppi lati oscuri ancora. Scusa, mi piacerebbe che ti presentassero, capito? Scusami, Andrea, giro poi la domanda anche a Giuseppe Di Piazza, da giornalisti ovviamente non sportivi di professione quali siete, vi occupate di cose molto più importanti. Stai per caso sottintendendo? Ci sono cose più importanti del calcio? Ma esatto, io non credo, è una follia, non ne conosco. Scusa Andrea, stai per caso sottintendendo anche tu quel pensiero comune e quasi volgare, in assenza di prove, secondo cui si starebbero questa operazione sarebbe fatta per far rientrare capitali da qualche parte? No, non oserei mai. Diciamo, è solo una domanda che ti faccio. No, non oserei mai. Diciamo che mi aspetterei che un sistema calcio nel suo complesso, no? Qui non si tratta soltanto del Milan, cioè stiamo parlando di un grande business e di una grande asset proprio del paese. E, insomma, io vorrei che ci fossero delle credenziali, mi piacerebbe. Poi ripeto, qua mi divido, da una parte c'è il tifoso che dice basta che arrivano i soldi, dall'altra parte però c'è un problema di sistema, ecco. Io non credo che nelle altre paesi dei grandi club possano avere degli oscuri personaggi che portano i soldi ci sono, ma mi piacerebbe sapere chi sono, ecco, guardare nome e cognome e vedere i curriculum. Giuseppe Di Piazza cosa ne pensa? Ma guarda, io ti parlavi del calcio come una cosa poi un po' meno seria. Io sono 37 anni che aspetto con la mia carriera di occuparmi finalmente della cosa più seria del mondo, che è il calcio. Cioè, tutto il resto è propedeutico quasi. Tutto il resto è noia. Allora, no, poi la notizia più importante per la romanista è che abbiamo il ministro dello sport è Totti. Sì. Luca Totti è lui, parente del numero 10 della Roma, Luca Totti. Mi permetto di dire che Luca Lotti gioca trequartista anche lui, il ruolo è abbastanza. Vorrei dirvi che Luca Lotti è milanista comunque. Allora par condicio. È milanista, centrocampista offensivo. Gentiloni della Juve. Gentiloni della Juve. No, quindi è veramente un governo nemico in qualche modo. Dimmi la tua invece su quanto ha detto Andrea. Ha fatto però la Roma, Vabbè, poi è facciamo una squadra di governo, organizziamo la partita della pace anche col governo precedente. Io voglio sapere invece cosa ne pensi tu sulle parole di Andrea Vianello e sulla... Ma condivido. Perché poi non... è sempre bello sapere con chi stai giocando. Allora, in uno sport così serio come è diventato il calcio, con tutti i soldi che girano, che ci siano degli acquirenti ancora incappucciati, a me è un po' da fastidio, cioè vorrei, ma da italiano, ma solo perché poi il Milan, vabbè, non è una società quotata, ma se fosse una società quotata non ci sarebbe nemmeno da discutere, ma visto che non è quotata, però fa parte di una galassia imprenditoriale che è quotata, insomma, mi piacerebbe che tutti sapessero chi sono gli acquirenti, i nuovi partner, con una trasparenza molto, molto normale nel business. Ora, se uno poi vuole giocare nei business grigi, a me non piace. Da giornalista, diciamo, pre-sportivo, ti dico che mi piace molto la trasparenza nel business. In tutti i sensi, dalle banche in poi. Sì, non c'è dubbio, piace anche a me a Pardo che invece... Sì, mi permetto di dire che è chiaro che qualcuno arriverà a chiudere, perché non è che lascio 200 milioni di camarra. Però voglio dirti che con questi 200 milioni, secondo me, Galliani, la dirigenza degli ultimi anni, che è stata anche giustamente criticata in certi momenti, secondo me sarebbe grandico. Cioè, con 200 milioni in più in questi anni avremmo visto sicuramente un altro Milan, perché sì, tanto il Milan che ha avuto sarà la capacità di competere a certi livelli, i risultati sono arrivati. Sarà curioso capire chi gestirà il mercato, se sarà un mercato a quattro mani tra Galliani più due mani guantate di non si sa chi, o se sarà un mercato condotto dal Milan attuale. Un'ultima cosa, Andrea Vianello, chi vorresti? Fammi un nome. Chi vuole? Fabregas, anche se ho visto che Conte l'ha rimesso in campo. Va bene, bollito, ma il campionato italiano uno come Fabregas da tanto. Sabatini vuole lui, Sabatini. E ci avrebbe ragione. Chi? Sabatini? Sabatini, sì. Sì. Ah no, ma pensavo Tato Sabatini. No, ma ormai noi abbiamo Mirabelli, non lo conosciamo, lo vedremo alla prova. Però sì, io penso, insomma, un grande centrocampista di qualità ci manca, anche se abbiamo trovato dei giovani interessanti, però potrebbe farci fare il salto di qualità. Grazie Andrea. Ci aveva regalato qualche anno fa un 11 del cuore per un programma un po' clandestino che facevo su Italia 2 qualche anno fa, veramente bellissimo. C'era il grande Aldo Maldera, c'erano veramente delle chicche straordinarie. Egidio Galloni centravanti, il mio idolo sciagurato di gioventù. Grazie Andrea. Vorrei salutarvi con una citazione di Verdone. C'era un cinese a Ostia, che può darsi che possa essere quello del Milan, non so. Ciao Andrea, io a Giuseppe Di Chiazza faccio ancora una domanda secca. Firmi un pareggio per la gara con la Juve? Sì. Anch'io, fossi in te, lo firmerei. Sì, già firmato, mi ricordo. Ha già firmato? Sì, già firmato. Grazie Giuseppe. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, poi facciamo fare pronostico, un po' presto fare pronostico a parte. Non alzare la cresta. Poi il fenomeno su Fiorentina. Allora Pierluigi, poi abbiamo il notaio che verrà qui e dichiarerà la tua schedina, perché non è che passano in cavalleria queste cose. A Cesare quel che è di Cesare, a Pardo quel che è di Pardo, dopo la borsa. Tutti convocati. Sono Enrico Ruggeri, questa settimana storie difficili e poetiche al Falco e il Gabbiano. Lavorare come uno schiavo dai 4 ai 9 anni, una breve e terribile vita, Iqbal Masih. La tragica e poetica storia della Chapecoense, la squadra brasiliana scomparsa nell'incidente aereo di pochi giorni fa. Rock senza trucco, punk e poesia, Patti Smith. Assieme a Corrado Barazzuti racconteremo il primo grande maleducato della storia del tennis, Jimmy Connors. E chiuderemo con un gigante, un mostro sacro dello spettacolo italiano, Paolo Stoppa. Tutti i giorni alle 15.30, Il Falco e il Gabbiano, su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Ragazzi, fatemi sentire un po' di musica, non mi mettete l'ansia, Pierluigi, qual è l'unico notaio svizzero napoletano che conosci? Secondo me Giorgio De Luca, ieri è venuto pure a vedere Tiki Taka. Un grazie pubblico, Come De Luca, mangia la pasta, una cosa con la, come gli antichi, col cucchiaio, con la forchetta, gli spaghetti, con la forchetta sul cucchiaio. Mi ha ricordato mia nonna. Ma c'era Franco Ordine che ha detto che gli ho ricordato il padre. È stato un bellissimo momento. Noi ti vogliamo bene, De Luca. Ho tradito le mie origini con questa cosa del cucchiaio. Sì, io sono d'accordo. Hai le tue origini, che sono svizzere, peraltro. Io propongo, De Luca, Tiki Taka con il ruolo del signor No. Come ti ricordi il signor? Come rischia tutto? È tornato. No, ma comunque, però diamo un po' di sacralità. Sacralità. Adesso non te la tirare così, Pierluigi. Non te la tirare così. Bisogna fare i complimenti a Pierluigi, che ha eguagliato il suo miglior risultato da inizio stagione con 8 risultati su 10. Facciamo prima a dire gli errori. Il primo è stato Atalanta-Udinese 1. Era difficile pronosticare. L'Udinese vittoriosa a Bergamo. Ci credo. E l'altro era Fiorentina-Sassuolo X. Un po' sofferto da parte di Pierluigi. E alla fine è stato 2-1 per la Fiorentina. Esatto. Era partito fortissimo. Crotone, Pescara, Samp, Lazio. I primi tre. Era anche una schedina, non so quali sono le quote, ma era una schedina abbastanza facile. Non avevo grandi dubbi né sul Crotone né sulla Lazio. Né sulla Roma ieri sera, quanto me la tiro, né sull'Inter, tutto facile. Anche il derby, Torino-Juve. Mi chiedo, io non sono un grande scommettitore, anzi non gioco praticamente più e non giocavo quasi mai, ma mi chiedo perché tutte le volte che giocavo perdevo, cioè evidentemente se io gioco una roba perdo. Se in ogni caso gioco... appuntamento venerdì 14:50, carta e penna, la schedina di Pierluigi Pardo. Quanta pressione addosso. Sì, ti vogliamo mettere pressione addosso, perché poi tutti gli ascoltatori sono lì a copiare la schedina di Pardo. Quindi concentrati, però non prendere quelle pause che adesso al venerdì prendi per riflettere, cioè vai. Lo so. Carmine, la Sassuolo mi ha costato la gara. Carmine, buongiorno. Buongiorno, ci si risente, grazie per avermi chiamato. Grazie a Dio siamo qui. Sì, io vabbè, sono tifoso della Roma, ma oggi voglio parlare del Milan. Brevemente voglio dire questo, che a me dispiace per i tifosi del Milan che si fanno prendere per i fondelli dal loro presidente, da Berlusconi, che ha preso per i fondelli per 20 anni l'Italia quando l'ha governata, no? Voglio dire che il closing, i cinesi non esistono, questi sono soldi sporchi che Berlusconi aveva all'estero e li sta riportando in Italia. Allora adesso facciamo così: alla prossima che sento di questo tipo, no, ne abbiamo parlato anche prima, alla prossima che sento di questo tipo faccio una registrazione della risposta che normalmente da Pardo e la mando in loop. No, ma voglio dire, ma cioè, io se lei ha le prove, le porti dal giudice. Capisco pure il sospetto, perché ha ragione, bene. Non mi ricordo chi, fra Di Piazza e Vianello, diceva che non c'era abbastanza surreale. Però voglio dire, se uno ha delle notizie, mi permette di dire una cosa. Non entro nel merito politico, perché poi ognuno la pensa come vuole, ma dal punto di vista dei tifosi del Milan, Berlusconi in questi 30 anni li ha fatti godere come forse nessun altro presidente. E questo va detto e va riconosciuto, perché se no, forse. Ecco, perché questo è un dato oggettivo. Poi sulle idee politiche ovviamente ci si può contrapporre. No, però su questa storia qui del reingresso di capitali illeciti all'estero, io voglio che tu un giorno mi registri una dichiarazione e io la mando in loop ogni volta che viene fuori questo sospetto. Cioè, se qualcuno ha delle prove, oltre che dei pensieri, sappiamo bene a pensare mai, va, peccato non si sbaglia così mai, disse un vecchio saggio, però se qualcuno ha delle prove, tutti convocati, siete ben accetti, però non è il luogo adatto. Gianni, buongiorno. Però io capisco, cioè voglio dire, non è che non capisco il sospetto. No, ma è un sospetto. È chiaro che non è un closing lineare, no? È anche vero che stiamo parlando. Però scusami Pierluigi, ma ci saranno anche delle autorità che vigilano sull'ingresso di capitali all'estero, dall'estero, soprattutto se trattasi di non quattro bruscolini, ma di svariati milioni di euro. No, ma non quattro bruscolini, secondo me il motivo fondamentale che spiega la complessità di questa vicenda è che, da quello che sappiamo, è chiaramente una serie di investitori e di fondi che sono legati al governo cinese, quindi non è una logica imprenditoriale facile del signor Genta che va e si compra l'appartamento dal signor De Luca, è una cosa o di un privato che si compra un club, è una vicenda, da quello che abbiamo capito e da quello che ci racconta Berinazzo ormai praticamente tutti i giorni, molto più complessa, e questo spiega almeno parzialmente il fatto che certamente non è un procedimento lineare, non è la cosa più normale del mondo, no, avendo tempi no, molto lunghi, e questo è indiscutibile, però da qui a dire che è una cosa per portare soldi sporchi, come ha detto l'ascoltatore, mi sembra veramente una follia. Ripeto, se uno sa delle cose, non è Radio 24 il posto non per è il dirlo, luogo, ma non è il luogo adatto, ci sono delle sedi deputate per presentare denunce e prove. Gianni, buongiorno. Buongiorno, parliamo di calcio. Allora, sono milanista, grazie di avermi chiamato. Io volevo spostare un attimino l'attenzione, sono estremamente felice dell'ondata di gioventù che c'è a Milano e i risultati che Montella sta ottenendo, Detto questo, volevo chiedere a voi cosa ne pensate comunque di Donnarumma. Nel senso, è un fenomeno, però deve ancora un po' dimostrare, perché il gol incassato ieri sera, criticato forse non da tutti, ma un portiere con una certa esperienza, oltretutto con Naigoran non coperto da nessuno, sì, un portiere di Serie A, Male che deve dimostrare ancora qualcosa, classe 99, se non dovesse dimostrare esatto. più niente, io gli farei degli esami biologici. Vale per Buffon, vale figuriamoci per un ragazzo così giovane. Appunto. Qualche errore c'è stato anche a Empoli, secondo me un mezzo errore sul gol dell'Empoli, però quello che ha colpito di Donnarumma, oltre alla qualità media delle prestazioni, è stata... ma insomma ragazzi, la Milan-Juve ve la ricordate, la parata all'ultimo minuto, cioè ci sono alcuni segni proprio da predestinato, ecco, esatto. questo mi sembra oggettivo. Poi sappiamo che i ragazzi sono chiaramente a mille pressioni e quindi c'è sempre il rischio di bucarsi nel ruolo del portiere, questo è ancora più importante. Vi ricordate quello che si diceva di Scoffetti qualche anno fa, e certamente un'evoluzione c'è stata, però che Donnarumma dia dei segni indelebili, precisissimi, di essere qualcosa di speciale, credo non ci siano dubbi, e onore a Mihajlovic che non ha avuto una grande esperienza al Milan, no, però nella sua esperienza al Milan sicuramente ha lasciato, diciamo, in dono, in eredità, il coraggio di puntare su questo ragazzo. Allora, fermiamoci un attimo traffico e poi c'è già Filippo Marerici in linea e un altro pallone d'oro a Cristiano Ronaldo e Lewandowski, che dice che tanto è tutto cabaret, tutta una pagliacciata. Tutti convocati. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta convocati. E adesso Cristiano Ronaldo, se fa gol lui è finita. Rincorsa da pistolero, fa lui col destro, rete! Non può sbagliare Ronaldo! Il Real Madrid è campione d'Europa per l'undicesima volta! Mejor momento de mi vida. Yo no te puedo decir otra cosa. Feliz, después de hacer la temporada que ha hecho, ganar la Champions por el Real Madrid, ganar la Eurocopa por Portugal, renovar 5 años más por Real Madrid, ¿qué te puedo decir? Un año de sueño. Si propone a destra, alla centro attende Andre Gomes, il cross per Ronaldo di tacco, rete, gol meraviglioso, è lui, è il fenomeno, è CR7. Quando è la prima volta è sempre una emozione differente, però questo non vuol dire che il sentimento sia lo stesso. Ovviamente la prima volta è sempre la prima volta, come tutto, senti una grande allegria, era come un deseo cumplido, un sueño que quería cumplir. Beh, Filippo Marerici, al di là dell'ironia che si può fare sui quattro palloni d'oro da far ballare, questo era inevitabile. Assolutamente, è tornato il pallone d'oro ad essere, no, premio al successo, che è il successo di una o due squadre. C'è un giocatore che fa da trade union tra i due, no, grandi trofei dell'anno, Cristiano Ronaldo, no? Si poteva dare a Pepe, no? Seppure ha vinto sia l'undecimo che il primo. Signor Pepe. A Pepe non gliel'avremmo dato, no? E allora, ecco, sì, io mi sono esposto al qua in Spagna, no? Scrivendo per il Mondo, dicendo che secondo me era giusto. Poi qua tutti ovviamente i difensori di Messi dicono no, ma Messi è migliore. Sì, Messi è un giocatore migliore di Ronaldo. Questo è, però quest'anno ha perso la Coppa America, ha vinto la Liga, che più o meno la vince ogni anno, la Coppa del Re, e in Champions è uscito nei quarti, si dà il premio al 2016, no? Complessivo. Certo, no, ma infatti in questo caso... Lo spiego perché qua in Spagna ovviamente, poi anche ha ragione, voglio dire, se dobbiamo parlare, no, di due dei valori, Messi è il giocatore migliore di Ronaldo, però quest'anno so che se lo prenderà. Ma io sono curioso di vedere se il pallone d'oro quest'anno è un anno un po' particolare, perché Cristiano ha vinto Champions League ed europeo, diciamo, l'ha così. Vinto con il vecchio format, no? Sì, però sono curioso, sono curioso di vedere nei prossimi anni se dovessero esserci invece delle situazioni strane, cioè che Messi e Cristiano non vincono grandi cose, cioè magari una squadra, magari una squadra italiana sarebbe bellissimo, ma comunque una squadra che non è una di quelle due che vince con un grande protagonista, se si tornerà realmente all'antico, no? L'abbiamo visto Mattia Sammer che ha vinto il pallone d'oro, quella se vuoi è l'esagerazione, però era quel tipo di formula. No, anche Bielanov vinse un pallone d'oro. Era quel tipo, anche Cannavaro fa il mondiale, fa un mondiale strepitoso, viene premiato. Vinse il mondiale e ci stava, insomma. Sì, dico, però sicuramente però c'era un giocatore migliore di Cannavaro. A me piaceva di più. Juventini all'ascolto, fare quello che deve fare, ma se dovesse succedere una certa cosa quest'anno, uno come Buffon, perché non deve pensare di poterlo vincere? Cioè, il vecchio format del pallone d'oro, secondo me, era molto migliore, perché innanzitutto premiava più giocatori, no? E perché in qualche modo raccontava l'essenza di quell'anno lì. Ma è chiaro. Poi è ovvio che Messi e Cristiano Ronaldo sono i due giocatori più forti. Calcio è uno sport, poi il calcio è uno sport di squadra. Io sono, insomma, non mi piacciono così tanto i premi individuali negli sport di squadra, però almeno si tenga conto del fatto che è uno sport di squadra. Filippo, come hanno preso De Luca, il Napoli? De Luca dice che lo vince Dries Mertens, Dries Mertens, sì. Deve superare prima il Real Madrid, come l'hanno presa. Che vuoi che sì? Guarda, non l'ha detto a caso, perché se succede, allora poi può essere candidato automaticamente. Come l'hanno pigliato il Napoli da quelle parti? Vabbè, con la solita discreta spocchia, insomma, va bene, un po' di rispetto, però teoricamente un avversario... No, qua non volevano la Juve, che si è guadagnata il rispetto, che io spero che si guadagni anche il Napoli, no? Ovviamente c'è differenza tra le due squadre, è inutile, ma soprattutto a livello europeo, la Juventus negli ultimi anni ha fatto un certo percorso, il Napoli ancora no, questa è una grandissima prova. Se dovesse superarla, come quando la Juventus eliminò il Real Madrid, no? In semifinale. Certo, Questa purtroppo arriva un pochino prima, fa un po' ridere che tu, ecco, una volta che arrivi primo nel girone, il Napoli ha sempre faticato, no? È uscito con quanti? 12 punti una volta, arriva primo, pam, e Real Madrid, no? Lo sapevano tutti i napoletani, a cominciare da Sarri per finire con De Luca. Piuttosto, però, fossimo in Italia, cominceremmo a dire che il Ciolo Simeone, che ieri ha preso 3 schiaffoni dal Villarreal, peraltro anche lì sorteggio non fortunato per i due italiani in Europa League, Villarreal contro la Roma. Cominceremmo a dire che il Ciolo Simeone è distratto dalle voci che arrivano da Milano, no, Pierluigi? È così, no? Dai, ieri sera avresti detto a Tiki Taka, distratto dalle voci che arrivano da Milano. No, non l'abbiamo detto, ma è insomma, chiaro che se dovesse avere dei problemi durante la stagione, quel tipo di dichiarazione, di rumor, qualcosa in più di un rumor, credo che tornerebbe. Ragazzi, voi però sottovalutate una cosa, che cioè andare al Wanda metropolitano senza il Ciolo, l'Atletico veramente gli entra una depressione che non gliela toglie più nessuno. Esatto, non possono permettersi di andare al Wanda metropolitano in periferia al freddo senza il Ciolo. Poi è chiaro che tutto può succedere, però tutto può succedere. Intanto succede che meno 12 è praticamente fuori dalla Liga, in Champions League ha preso il Bayer Leverkusen, ma dopo dopo esserselo meritato peraltro nell'intero girone, ha fatto un bel girone, no? È andato davanti al Bayern, per cui la Champions è ancora lì. Adesso poi sai, la Champions si vedrà, questo turno sembra abbordabile, dopodiché vediamo. No, ma io l'ho sempre detto, dico, cataclismi anche positivi e negativi possono far cambiare idea al Ciolo, però al momento la situazione è quella di un mese fa, 2 mesi fa, 3 mesi fa. Cioè quello di entrare al Wanda metropolitano con le mani, mani alzate. Esatto, per cercare di scaldare un po' questo ambiente. Così. Poi dopo, appunto, vediamo, ieri sera è stato, perché tra l'altro attenzione, il Villarreal le ultime 3 partite di Liga non aveva vinto, non aveva fatto neanche un gol. Il problema è che questi hanno preso 15 giornate gli stessi gol che l'anno scorso aveva preso 30, sì. Quindi non è neanche, non difende neanche più bene, no, sono completamente perso, sembrano cambiati, no? Nell'anima, ma questo l'abbiamo detto già diverse volte. Filippo, ti ringrazio, a voi, Filippo. A voi. Ciao Filippo Maria Ricci. Ciao. Io ringrazio anche Pardo, che non vedo l'ora, sia venerdì, per aspettarlo al barco alla prossima schedina. Tanto godiamoci la gloria. No, ma senti, ma piuttosto dimmi solo una cosa, ho ancora 20 secondi solo per tornare sul pronostico che ho fatto a Fara di Piazza. Lo firmeresti un pari lui subito? L'ho già firmato. Beh, io penso che la Juve abbia una possibilità, la Juve non debba firmarlo, perché che comunque certo. Il fattore campo sia, soprattutto a livello dello stadio, qualcosa di molto forte. E la Roma invece potrebbe firmarlo, perché comunque tenere la Juve con, tra l'altro, la Champions, che sappiamo non è l'Europa League da un punto di vista proprio di energie mentali. L'Europa League è più stancante a febbraio dal punto di vista fisico, è più stancante dal punto di vista mentale. Riuscire a rimanere a meno 4, andare sotto a mangiarsi il panettone a meno 4, sarebbe, evitando la sconfitta, sono d'accordo, Juventus sarebbe, Stadium, sarebbe qualcosa di, tra l'altro, con quell'illusione ottica poi di Roma-Chievo, che può essere l'occasione per accorciare, mentre la Juve sta lì che si gioca la Supercoppa. Io penso che Spalletti potrebbe accettarlo. Fossi Allegri non lo accetterei assolutamente. Grazie Pier, ci sentiamo domani. Ciao Pierluigi, noi torniamo subito dopo il GR. Tutti convocati. Domenica, ore 14:30. Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Convocati. Poi arriva anche Maurizio Crosetti per commentare un po' di cose. Intanto Maurizio, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per la convocazione. Io volevo chiedervi una cosa da voi che masticate di calcio, io lo prendo già masticato, però mi chiedo sempre... Brutta immagine. Mi chiedo sempre, ma Mario Mandzukic, ricordando quello che fece Bagnoli con Bagni, che da centravanti, se non ricordo male, lo fece giocare, lo trasformò in un centrocampista grande. Beh, diciamo che da ala destra, da numero 7 come si usava allora, venne trasformato in mediano. Ma Mandzukic, per le caratteristiche anche così caratteriali che ha e fisiche anche, non sarebbe un bel incontrista con la propensione al gol? Ma ecco, secondo me non la... Maurizio, no, guardi, secondo me non ha il passo del centrocampista. È un tipo di giocatore che è perfetto là dove sta. Poi lui già fa l'incontrista giocando centravanti. Chiedergli di arretrare a centrocampo per fare l'incontrista, secondo me sarebbe un po' tanto. Non è più esattamente un ragazzino. E poi secondo me il passo del centrocampista non ce l'ha, come si diceva un tempo. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi invitato e complimenti per il vostro programma, è veramente divertente. Guardi, io vorrei, vostro cortese tramite, diciamo, dare un attimo una tiratina d'orecchie a mister Montella per la partita di ieri, ma non per l'assetto tattico, perché questo ormai lo hanno detto tutti, hanno giocato molto bene, ma per il rigore. Io il rigore, vabbè, adesso ex post è facile dirlo, però già a priori non l'avrei fatto tirare a Milano, perché il rigore non è una questione di tecnica, è una questione soltanto di mentale, una questione di freddezza, anche tecnica, anche tecnica. Sì, è soprattutto un duello col coltello in mano tra il portiere e il tiratore. Certo. Allora, quando lui ieri a fine partita dice ma lui li tira bene in allenamento, ecco, a me questa giustificazione non è piaciuta, perché tirarli in allenamento è un conto, ho capito, in partita un'altra cosa. Ogni allenatore designa un rigorista, adesso magari il Milan proverà a designarne un altro, anzi converrebbe che ne scegliesse un altro, perché lo score di Niang in partita non è esattamente incoraggiante, come detto, 3 segnati su 7 tirati. Poi detto questo, io sono dell'idea che se per l'appunto uno sceglie un rigorista deve tenersi quello e non mi piacciono le pantomime, no lo tiri tu, lo tiro io, chi lo tira, no lo tira il portiere. Queste cose meglio evitarle, meglio che ci sia quello che è incaricato di prendersi la responsabilità, poi eventualmente ci si pensa sopra. Intanto mi preme far notare che Niang ha già incoronato la Padula come centravanti del futuro con tanti saluti a Bacca, come ho detto prima, perché no, il prossimo lo tira l'APA. Allora, Maurizio Corsetti a Repubblica, ciao! Eccoci, buongiorno a tutti! Eccoci, senti, intanto la sigla finale di Roma-Milan di ieri sera già ci proietta al cinepanettone. Juventus-Roma, gara a questo punto... Beh, qualcuno dice decisiva per le sorti del campionato, a me questa sembra una esagerazione totale, ma sentiamo Spalletti. È come il Palio di Siena, si va sempre di rincorsa sui canapo e la Juventus è una squadra fortissima, vogliamo vincere tutte. Noi dobbiamo prima di tutto recuperare lo sforzo di stasera, vedere che si è fatto Bruno Perez, cercare di mettere poi la squadra in condizione di essere equilibrata, perché la Juventus non mantiene equilibrio sempre, come concedi mezza situazione fanno 2 gol. Beh, per la cronaca, Bruno Perez è fatto male, non giocherà contro la Juventus e salterà anche la gara successiva con il Chievo. Quanto al resto, Maurizio, prima ne abbiamo parlato con Di Piazza, con Pardo. Di Piazza, da romanista, firmerebbe subito l'X. Pardo ha detto sì, anch'io firmerei l'X fossi nella Roma, non nella Juventus. Vabbè, sì, insomma, è chiaro che sabato si tratta di attuare un nuovo episodio di accanimento terapeutico nei confronti del campionato. Sì, no? Sì. Cioè noi pensiamo che sia giusto provare a tenerlo in vita fino all'ultimo, no? Prima di staccare i respiratori. La Roma può evitare di staccare i respiratori in realtà solo vincendo e forse nemmeno, perché la Juve rimarrebbe in ogni caso a più uno, però non possiamo raccontarci ogni anno la stessa favola di Natale, no? Cioè che il campionato è aperto. In realtà sembrerebbe esserlo un po' di più se si contano le 3 sconfitte già messe insieme dalla Juve, però la Juve sta quasi in fuga avendone perse 3, ripetiamo sempre le stesse cose, è una partita che non decide il campionato a meno che la Juve non la vinca, e allora a quel punto lì 4 più 3 fanno 7, poi arriva Natale, certo. E poi la Juve vince le partite facili e gli altri no. La Juve perde qualche volta le partite difficili, ma vince tutte le partite facili che non sono, le rende lei facili. Certo. E questa è la differenza, perché poi gli altri, anche la Roma, spesso inciampano sull'ostacolo basso, no? Vanno in rottura prolungata, e la sì, Juve no. Hanno dei cali di tensione che la Juventus non ha mai, essendo una squadra solida nel cervello e nella mentalità e nell'anima, quanto lo è nel fisico. Almeno questa è la mia sì, sensazione. Sì, la Juve è una squadra fisica anche nello spirito. Bravo, fisica anche succede, nello spirito. Succede, ha dei muscolacci dei pensieri anche la Juve. Pensa per quadricipiti e corre per pensieri, perché poi metti dentro Dybala e dici no, questo non corre per... non ha i pensieri muscolari. Lui ha i muscoli pensierosi, cioè il contrario. Quello che ha fatto in quello scampolo di derby è stato una delle cose più belle di questo campionato, se quello posso dire. Ha dato la dimostrazione che la Juve è fortissima anche senza, nel senso che può spesso vincere di pazienza, di forza, di esperienza, di tenacia, eccetera, di resistenza, e poi però capisci che ha il valore aggiunto che è il giocatore, io credo, più forte visto in bianco e nero dai tempi di Alex Del Piero, perdonate la rima della filastrocca, però non credo che come classe pura, è chiaro che la Juve ha dei fenomeni, da Buffon, Higuain, eccetera, ma pesando la classe, la fantasia, la capacità di cambiare il ritmo, il registro delle azioni, l'imprevedibilità ad ogni palla, Dybala è il più grande di tutti, cioè sì, Dybala sì. Sta con Messi, nel senso di quel tipo di giocatore lì. Non è che ci sia poi così tanta differenza nei contesti, cioè quando ha la palla Dybala qualcosa succede sempre e spesso succede un disastro per gli altri. Poi bisogna capire dove si mette, con Higuain, non Higuain, Mandzukic, ma queste qui sono le famose punte da fare i chiodi. Sì. Con Dybala la Juve da fortissima diventa straordinaria, certo. E quindi fate un po' voi. Sì, fa il salto europeo. E a proposito di Europa, vittoria nel derby, sorteggio buono anche in Champions League. C'è Nedved che ha difeso comunque a spada tratta il gioco tanto criticato dalla Juventus, così. La Juventus è stata criticata secondo me sopra delle righe, perché devo dire che sia giocatori che tutto lo staff tecnico hanno fatto fino adesso tutto quello che abbiamo chiesto, anzi hanno fatto grandissimo lavoro, li volevo fare complimenti proprio oggi perché hanno affrontato delle difficoltà enormi. Tanto Mao, con la vittoria della Roma di ieri sera, la favola di Natale è sempre la stessa anche dal punto di vista della classifica, che si sta avvicinando, sta prendendo le sembianze che ci immaginavamo ad agosto, no? E si sta allungando una biscia nel prato, la coda si stacca quasi, ma a differenza della coda della lucertola, se la stacchi non si muove, perché quei tre dietro, soprattutto quei due, mi sembrano... ovviamente mi riferisco al Pescara, soprattutto al Palermo, mi sembra in coma de passé totale. E mentre il Crotone, intanto ha vinto l'ultima e poi chissà, magari un po' più vicino al bordo del pozzo, magari riesce ancora a mettere su un'unghia e a issarsi. E davanti abbiamo detto, davanti. E poi comunque il dibattito sulla bellezza forse finisce, sarebbe anche ora, no? Perché a parte il fatto che poi la bellezza calcistica non solo è più soggettivo tra tutti i concetti, no? C'è chi trova bella una rana, io rispetto questo. Io trovo bello chi mi convince, trovo bello chi vince. Anche chi perde, anzi spesso trovo più bello chi perde di chi vince. Il derby del Toro, il derby perdente del Toro è bellissimo. Bellissimo. Dicono che non ha vinto niente il Toro domenica, quindi sai. Infatti io non ho condiviso le critiche a Mihajlovic che ha fatto quel cambio che qualcuno ha definito alla Deborah, non so se sei stato tu o qualcun altro. Io sì, sono sì, confesso di essere stato io. Se riguardi l'azione, c'è il Toro che non sa dove mettersi in quei pochi secondi, poi avrebbe probabilmente perso lo stesso. Ha avuto la sfiga in quei pochi secondi di prendere gol. No, ma infatti l'intenzione è giusta, io non è che colpevolizzo, cioè se tu devi provare a vincere la devi cambiare anche tutta, come il giocatore di poker che cambia, cosa chiedere, quattro carte, una vita che non gioca a poker, comunque vabbè, insomma, che cambia tutto. E il problema è che se cambi nel momento in cui hai anche la sfiga di vedere rovesciata l'azione e dai quell'attimo di incertezza fisiologico, dove mi metto, chi prende chi, e lo concedi alla Juve che lancia Higuain, ragazzi, in confronto Madama Butterfly non si è fatta niente con quella spada. Capisci? Si è fatta la ceretta, Madama Butterfly. Si è fatta la ceretta con quella spada. Allora, tempo di feste di Natale, ieri c'è stata quella dell'Inter, c'è stata quella della Juventus, ma c'è stata anche quella del Pescara, dove sono volati sputi, insulti e mazzate. A proposito di Inter, sentiamo cosa dice Zanetti, poi parliamo di questo. In questo momento ci concentriamo su queste ultime partite che mancano, perché vogliamo finire bene e risalire in classifica. Gabigole è molto giovane, sta lavorando molto bene con grande umiltà, e dopodiché con l'indicazione del mister e di Piero e di Giovanni Gardini, che parleranno con noi e con la proprietà, si deciderà cosa fare. Io lo darei al Pescara, così almeno non li menano. Sì, forse sì, potrebbe essere una soluzione. Cosa dici? No, vabbè, ma al di là di quello, ieri sera sappiamo questo episodio qui. Ma a Pescara non è che fanno la Champions League tutti gli anni, voglio dire. Neanche a Milano, però a Pescara bisogna anche dare atto a Oddo di provare, no? Sta facendo un tentativo, cioè salvarsi o magari retrocedere giocando. E non è detto che poi sia una cosa sbagliata. Abbiamo anche visto dei bei momenti di gioco, certo, ultimamente non tanto. Forse un tifoso del Pescara vorrebbe qualcosa in più, anche per lui forse il concetto di bellezza è più di praticità che non di schema ideale, di movimenti in campo. Però insomma, se in Serie A ci stai provando, sputi no. Neanche mazzate, nemmeno mazzate. E per chiudere, l'Inter ti ha fatto qualche impressione o ti ha lasciato totalmente indifferente con il Genoa? No, l'Inter, io continuo, sono di quelli che la vedevano tra le migliori, pesando i giocatori uno per uno. E se continua a prenderne alcuni di questi, non tutti, ma tutto sommato abbastanza tra loro, molti insomma tra loro, e li peso, li guardo, li considero forse come, più come organi singoli che come organismo, bravo, e beh, mi sembrano problema. Dei begli organi, cioè uno come Joao Mario, come Icardi, come Handanovic, ma Perisic, Jovic si è un po' perso, Candreva, cioè come fai a dire che non ha giocatori forti l'Inter? E come fai a pensare che un bel momento non si riescano a mettere bene in campo? Io non lo capisco, cioè quando vedo giocare una squadra con giocatori scarsi dico vabbè, logico. Sì, certo. Quando vedo giocare male, sotto ritmo, una squadra con giocatori mediamente forti non mi torna. Sì, sì, sì. Ieri però D'Ambrosio, durante la festa dell'Inter, è stata cosa interessante, cioè che erano praticamente male allenati dal punto di vista fisico. Può darsi che siano stati sulle ginocchia da subito, e in un campionato come questo non puoi essere sulle ginocchia. Diciamo che forse è questo, forse hanno comandato in troppi, con troppa confusione. O forse nessuno. I giocatori li ha l'Inter, io continuo a dire quelli, i giocatori li ha, alcuni sono fortissimi secondo me. Grazie Maurizio, a presto. Prego, ciao, ciao. Sempre un piacere, Maurizio Crosetti da Repubblica, Giuseppe invece da Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, io sono un po', grazie per la chiamata, sono un po' intimidito. Le volevo chiedere una cosa. Da De Luca. Adesso lo rimprovero, intimidito da Giorgio De Luca. No, mi tremano un po' le gambe. Sinceramente, no, ve lo chiedo. Io non so se ieri o l'altro ieri ho sentito parlare il signor Pardo, sì, di un rapporto fra Roma e Milan, che lui aveva fatto un certo calcolo, no, in cui dava superiore in Milan, non so, 9 volte su 10. No, okay. lo raccontava ieri Luca Valdiseri del Corriere della Sera. Ah, non signor Pardo, mi sono sbagliato. No, comunque era nell'ambito di una discussione in cui c'era anche Pardo. Ecco, io volevo sapere di cosa si trattava, tutto qua. Perché non ho mai sentito una cosa del genere. No, ha analizzato, Valdiseri ha analizzato varie statistiche, varie voci statistiche, per cui, esatto, tra possesso palla, numero degli attacchi, eccetera, ha fatto questo complesso calcolo statistico dal quale risultava che in 9 statistiche su 10, se non ricordo male, il Milan era superiore alla Roma, ciò nonostante gli stessi punti. Adesso gli stessi punti non li ha più, perché la Roma ha vinto la partita. Però io trovo sempre molto difficile, qualche volta fuorviante, leggere il calcio attraverso la statistica. Mi sembra lo sport meno statistico che esista al mondo. Carlo Laudisa, Gazzetta dello Sport, ciao. Ciao, ciao, come stai? Molto bene, tu? Tutto molto bene, tutto grazie. Tutto molto bene. Allora, questo, il closing, parola che ormai è nelle orecchie di tutti. Dalle vostre parti è naturale, per noi meno. Sì, sono arrivati questi altri 100 milioni, come dice Galliani. Sì. Sentiamolo. Sì. Mi occupo di Milan e non di Fininvest, e quindi è una domanda che va girata al potenziale venditore che è Fininvest e il potenziale acquirente che è SES. So che domani dovrebbe essere un giorno molto molto importante, però è giusto e corretto che siano loro a rispondere, non io. SES con la S, mi raccomando, ma 100 milioni che sono arrivati, dunque il mercato chi lo fa? Galliani è una mano guantata, perché ancora non si conoscono i nuovi proprietari? Sì, lo continuerà a fare Galliani, perché evidentemente quella fornitura, quel bonifico di oggi funge da caparra, ma non è certamente ancora il closing, e di conseguenza l'assemblea di oggi societaria del Milan non ha prodotto novità. Adriano Galliani resta saldamente nel suo delegato, quindi il mercato di gennaio lo gestirà lui, senza però risorse economiche nuove. Questo è il lato negativo, a meno che incredibilmente i cinesi non riescono a davvero completare i pagamenti già entro il mercato di gennaio e non entro il 6 marzo. Sì. È imprevedibile questo epilogo, felice, anzi questo lieto fine, però io non credo che sia un'ipotesi da escludere a priori, perché fino a Europe Sport sta lavorando in questo senso, almeno così sperano, perché altrimenti domani in programma questo faccia a faccia fra Adriano Galliani e Marco Fassone devono convivere con questa gestione che già abbiamo visto in estate, no? Con la differenza che quest'estate il Milan poi 15 milioni da spendere li aveva. In questo caso, se vuole dei rinforzi, deve vendere, e quindi ecco perché poi occorre l'avallo del rappresentante della nuova proprietà. Certo, tutto molto chiaro. C'è anche De Laurentiis che ha parlato di un nuovo acquisto, di un nuovo centravanti che certamente arriverà. Sentiamolo. In fondo Milik rientrando è come se fosse un giocatore nuovo, e il nuovo acquisto sarà un giocatore nuovo per il Napoli a tutti gli effetti. E chi sarà questo giocatore nuovo per il Napoli? Io potessi andare a prendermi quello che ha fatto due gol ieri sera, cioè Nikola Kalinic della Fiorentina. Io. Anche Sarri credo che avesse votato questa soluzione già in estate, ma la Fiorentina ha sempre detto no, come aveva detto no Preziosi per Pavoletti. Invece adesso su questo fronte credo che si stia predisponendo a cambiare idea il presidente rossoblù. Quindi io direi che l'indiziato numero uno in questo momento è Pavoletti. Sì, però ti faccio una domanda un po' cattiva. Hai Milik che si è rotto un ginocchio e sta per tornare. Pavoletti non mi sembra un giocatore di grande solidità fisica. Evidentemente, statisticamente è così. Nelle ultime due stagioni è stato un po' martoriato. È anche vero però che ha un rendimento realizzativo davvero di primissimo piano, ed è un giocatore che ha le caratteristiche che forse neanche Milik ha, perché Pavoletti è un centravanti d'area di rigore, certo. E senza voler offendere nessuno ha più le caratteristiche di Wayne lui che Milik. Poi Milik ha altre qualità che abbiamo già apprezzato, sicuramente. Per cui non credo che sia un acquisto di secondo piano, non dimenticando mai che quest'estate De Laurentiis aveva offerto 23 milioni per portare a casa Pavoletti. Non è quindi un amore nuovo, no. È una pista che evidentemente sì, che viene seguita da tempo. Gabigol, in una parola, che viene fa? Bisogna decidere lui dove andare, perché mi sa che in questa situazione non ha spazi, e l'Inter si deve dare da fare per trovargli modo anche per valorizzarlo. Questo è chiaro, perché comprare comunque un giocatore che ha costato molti soldi e lasciarlo in fondo alla panchina con il broncio non mi sembra una grande idea. Grazie Carlo, a presto. Grazie a voi. Ciao, ti abbraccio, Carlo Laudisa. Allora, tra poco il Falco e il Gabbiano con Enrico Ruggeri, che oggi sarà dedicato alla tragedia del Chapecoense della settimana scorsa, come sapete la squadra brasiliana che è perita in quel dannato incidente aereo. E c'è questa notizia che mi ha lasciato basito, e cioè la Federcalcio brasiliana ha multato la Chapecoense, che nel 2017 sarà allenata da Wagner Mancini, per non essersi presentata all'ultima giornata di campionato. 0-3 a tavolino, meno 2 punti e multa di circa 30.000 euro. Punito anche l'Atletico Mineiro, suo avversario, che pure non si è presentato, andrà comunque in Copa Libertadores. Cioè, di fronte a queste situazioni, nonostante i regolamenti, un minimo di flessibilità sarebbe stata quantomeno auspicabile, quantomeno apprezzata. Grazie a tutti, Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Alvise Falzoni in redazione. Ci sentiamo domani. Ciao.